Ma ora ho voglia di capire emozioni, sentimenti del corpo fisico nel mondo degli umani. Le cose sono finite, hanno una loro dimensione, spazi e tempi indefiniti, dove vivere e morire. Spirito e materia, ogni singolo concetto ha milioni di parole, diverse in ogni luogo, diverse in ogni tempo. La sabbia scorre e corre ogni traccia. Definite da un concetto primordiale, obbligo per creature limitate in ogni direzione, da una legge universale.